signor Cacciarano? A me lì mi sembra che il signor Califano, vero? Io sono il signor Califano, sì, e sto parlando con Ricciato. E lei mi ascolta bene adesso? Sì, tra, si ascolta bene. Ho cambiato radio, ho messo quell'altra qua in camera da letto, ho capito? Mi va bene ugualmente. Perché quella là non posso andare là, capito? Ho capito. Loro ho messo questa, ma in questa ci vuole il fusibile più grosso, perché ho messo l'alimentazione dell'altro, perché era uguale, no? Ho provato, ci stava allumando il fusibile. se c'è il fusibile più debole, per forza. Quindi ho messo il capo suo. C'ho questo pappagallo che mi sta assillando, allora mi ne cavendo le cuffie da capo. Lo fa apposta. Non c'è altro nessuno, fra. Ma io ero coricato, mi sono svegliato adesso, mi sono riposato un po'. No, perlomeno quando ho acceso adesso non ho sentito nessuno. Mi sentito là, Chi è che vuole entrare? Buonasera, sono entrato per un saluto, per tanto sto per mangiare. Franco, poi avevi risolto per quel menù? Grazie. Sì, ho risolto con quella radio là, però con quello là non ho... È tutto da risintonizzare, Marco, un casotto, stavo perdendo la testa e l'ho abbandonato. Ah, ricevitore, e gli fai il reset, ma ce l'hai il manuale per fare almeno il reset? E poi, ho detto, tre tasti, prog, private e prog, fatto, non c'è altro da fare, però se lo resetti è meglio perché gli leva tutti i canali, magari vuoti, che non si usano più, cappa. Signori, vi saluto, vado a mangiare, ciao Natali, riprendi. Eglia, ciao Marco, dai, se coincide ci sentiamo più tardi. Bene, mi stai ascoltando, Marco, lì? Benissimo, il segnale credo 1925 più o meno, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, mi interessava la radio se era buona. Sì, pulita. No, io non so la tua modulazione, cioè la tua voce è verticale, però sembrerebbe fedele, non trovo niente di strano. Ok, perché ho provato quell'altra radio che ho risentito, rimemorizzato tutto, gli ho fatto tutti i parametri che erano tutti incasinati. Sì, perché se no ti va in protezione anche con poco, l'ha fatto anche a me. Natalino, una domanda. Avanti. Ascolta, al poligono dove stavate voi, per fare il tiro pratico, cosa usavate? I bersagli IPSC o quelli IDPA? Ah, di tutti i tipi c'erano i bersagli. Avanti. Quello che ti piaceva, ti prendevi, lo appendevi. Ah, ma non c'era una regola fissa, anche bersagli quelli concentrici, no? Il bersaglio classico. Le regole andavano bene solo se c'era la gara, capito? Se solo per allenamento mettevi il bersaglio che più ti piaceva, capito? Perché per esempio ci sono anche i bersagli che usano per tiro dinamico sportivo, che sono diversi dai nostri. Va bene Natali, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao Marco. Freddo a Cenelli da te, Natali? No, freddo non ce n'è, solo che mettendo il cherosene nel serbatoio me ne è caduto un po' in terra e ha fatto un poco di fiago, se no fiago non è vasi, dice. Perché io il serbatoio non lo pieno mai, capito? Non lo pieno tanto il serbatoio, lo lascio così. Lo faccio a metà, perché l'altro giorno mi ha fregato pure a me, capito? A me, lo sai cosa, come mi ha fregato, perché come ne stavo salendo la pompa, per esempio, era rimasto del gasolio e mi ha fottito. Ciao Natali! Ciao Giorgio! Sì, è un casino, perché non si vede molto bene, capito? Il livello che c'è lì. Infatti, non mi frega mai, ma questa volta mi ha fregato. vabbè, non succede niente. Basta asciugare e si risolve. Tutto lì. E infatti. Non problem, non problem, madonna. E me ne è caduto appena appena, ma l'odore che fa, puzzinoso. Fa un medio odore quello lì, è un casino. Ha detto a asciugare che... Già... Ho la bocca, la ciò lo straccio, col detersivo, gli ho cambiato il carrello, gli ho cambiato, gli ho messo l'altro che è lì. Ma chi è? Perché quello grande grande non va bene, quello piccolo uguale al mio gli devi mettere, così c'hai la possibilità di spostarlo, capito? E infatti quello lì gli ho messo. Cava cava, va bene, fa un passaggio e ti do un rapporto, dai. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9 più 30 a radio super 5. Cava cava. Tutto sotto controllo qua. Ehi, ehi. Io sto arrivando a Santiago de Ottoli. Magari. Lo sai che forse non ne fanno quelli neanche di corso questa volta. Infatti. Ma non c'è problema, capito? Già lo sai come bisogna, come facciamo, no? Io già lo so. Vabbè, non è un problema comunque. Anda bene, Neira. Cava cava! E cosa stai facendo di bello? Mi sono svegliato poco fa, ho acceso e mi sono seduto nella solita sedia. Ma quindi bisogna toccare pochi tasti per rifare la memorizzazione, quella cosa? No! Comunque il manuale degli istruzioni ce l'ho io, nel caso. Mica! Prego, prego, prego, prego. E la pizza è nata lì. Ehi, tu me ne mangi di la recica, me ne ti rendi le guffi da capo. Ciao Natalino, ciao Gianfranco. Mica forse c'è Giovanni, so. Attento Giovanni, buonasera, cambio. Tutto cappa Roggero, frate. Cosa dai, giù incollato lo smitter? A me non mi ne hai incollato di smitter, non ce n'è problema, capito cappa? E cosa sei da te, amico mio? Sto usando un baracchino della mutua io. Ah, io sono mai fatto bene a fare in fotografia. Buonasera Natalino. Natali, ti ha salutato Giovanni. E Natalino si è spostato. E beh Giovanni, visti gli hai i messaggi che ti ho mandato. E comunque ho detto è risolto, sì. No, ma non credo che... Adesso sono nella veranda, ma se vado nella roulotte non lo so se esco. E poi cazzo nel camper e continuo... Non esce. Ascolto bene tutto quanto, ma sul camper non esco. Strano, molto strana la cosa. Ma con quella radio là o con quello col 48, sì? No, con il CTR. Faccio una prova, ce l'hai due minuti, Gianfranco? E tranquillo, vai, non c'è problema. Prova. Allora vado un attimo sul camper. Prova a vedere. Ho detto, ma quale stai usando l'apparecchio? Il Superstar? Positivo. Questo di adesso? No, sono in veranda qua adesso. E voglio sentire quel Superstar come esce dal camper. Adesso te lo faccio sentire, mi sposto un attimo. Cappa di positivo, dai, provalo. Riprendi Natalì. Attento Natalino, binario cambio. Ascolti questa piccola modulazione dalla città di Sassari, cambio. E a me mi sembra che sì, tutto con lecca lecca. Davvero sì? E davvero so. E non lo so, te lo stavo provando. A vedere se funzionava tutto lì. Adesso l'ho spento però, Già l'ho visto. Cava cava, ho detto sicuramente da te sto arrivando Santiago 7. Non si intendi, no! Non si sente qua! Non si sente niente! Vabbè, Fra, aspetta che sto facendo una cosa, voglio vedere una cosa. Fai tranquillo, non c'è problema, sono qua, dai. Cava cava e cava cava. Cambio, lascio e chiudo. Attento Gianfranco. No, però radio va. No, ti ho provato tante volte, ma ho visto che non esco, non mi hai risposto. Ma con quella radio là non esci, quella superstar? Niente di niente, ti ascoltavo bene a te a Natalino, ma no, ho provato e non esco. Ascolta a me, e quando parli il segnale del coso dove ti segna il Santiago, funziona, sale quando parli? Sì, sale Gianfranco, sale bene. Sale bene, però non ti ascoltano. Prova, io non ti ho sentito. È possibile che sia problema d'antenna, Giovanni, se non sta facendo massa? Cazzo, l'ho toccata, anch'io penso quello, ho provato a sforzarla, ma non... Aspetta che ti chiamo, rispondi al telefono, ci stavo chiamando, non mi hai risposto. È perché c'ho le cuffie, non l'ho sentito, aspetta che lo prendo. Prova, prova. Non stai uscendo di radio, Giova. Niente, non sta uscendo di radio. Ti ascolto, Santiago 8 e Radio 5. Capo di positivo, forte e chiaro, 9 Radio 5 qua da me. Ah, io ti sto chiamando, non rispondo al telefono, che Franco. Che? Torino sono. Aspetta un attimo, là, un secondo. E a me come mi ascolti? Attenzione, amico. Prova a te che è trasmissione. Allontanarsi dalla linea gialla. Binario 10. Attenzione canale 10. Allontanarsi dalla linea gialla. Attento Giovanni il cambio. Chi è questo Giovanni? Come ti arrivo, Francus? Allora, qua stai arrivando Santiago 9:30, Radio 5. Cappa di rotolo, è così come mi ascolti. Cambio. Cambio troppo eco, bravo. Binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Guarda se senti Giovanni che stava provando un apparecchio giù a vedere, perché qua con l'altra radio stava arrivando, con quella no. E dove sta trasmettendo Giovanni? La zona di Platamona. Attento Giovanni, stanco, ascolti qua, cambio. Tu dovessi sentire più di me, se sono alta. Attenzione Giovanni. E c'è cosa importante? No, è l'apparecchio show che non sta uscendo sicuramente. Attenzione Giovanni, non stai uscendo. Giovanni, non stai uscendo di radio, cambio. Tutto scarico, ma strano, Giovanni è più basso prima, adesso lo fai. C'è un problema con la radio, non sto uscendo, capito? Esce il segnale e non esce di radio. Sicuramente è problema di microfono. Senz'altro qualche filo staccato. Cava di positivo, e se conferma. Ti volevo dire, a me come mi ascolti lì a... A quelle PR? Qua sei sempre 9:30, Radio 5 è perfetta. Guarda se cambia qualcosa a me così. Ecco, in questo passaggio, 1, 2, 3, prova di modulazione, vai. 9:30, tu lì, più di 9:30 non sale qua. Attenzione Giovanni, non stai uscendo. Attento Giovanni, cambio. Attenzione Giovanni, non stai uscendo. No, io non lo sento, ho sentito la portante poco fa, però sicuramente c'ha problemi sul microfono. Ehi capo, poco fa lo sentivo bassino quando sta parlando con te, però ho acceso. No, perché con l'altra radio arriva, con quella ci arriva un bel segnale, però non esce di radio. Sicuramente c'ha problemi di microfono, capito? Ma forse non è lui che sta a segnare il portante. uscendo. No. Non va, non stai uscendo con quel mix, con quel baracchino, eh. Aspetta un attimo, Tony. Scappa. Hola, canale 10. Hola, prova di modulazione. Prova, passa. Chi sei, Giovanni? Positivo, ciao, ciao, ciao. Caspita, sì, esce bene. E io sono Toyo Kawasaki. Attenzione Franco, è entrato Giovanni. No, non posso dire no, non posso niente. E infatti non è solo di segnale, basta. Franco, e forse è spostato andato in bagno. Attenzione Franco, Franco. Come mi ascolti Giovanni? Io ti sento bene, Franco è al telefono con me, è lui che ti risponde. Scusami un secondo solo. Va bene, d'accordo. Hola, hola, hola, hola, hola. Canale 10, allontanarci dalla linea gialla. Tutoni, quel pappagallo me ne sta facendo uscire gli occhi. Ehi, Dori, ci sei? Chi è, avanti, chi è, chi è? Vabbè, anima lunga. E chi è, avanti, buonasera, chi è, Franco Califano? Ah, di positivo, ciao. Franco, Bancaleddu, come mi ascolti? 9-10, radio 2x5, buona, ultima. Andave, andave, siamo qua, siamo, dobbiamo sgozzare 10 pecore un paio di agnelli. E qua ci sono 4 vacche e 2 turi. Ui, ui. Va bene, arrivo a Monterosello. Capo di positivo, qua tutto sotto controllo da parte mia, cambio. Tutto alla grande. Oh, cari chi c'è, come pari Rubaba. Attento, binario 10, cambio. Ehi, attento sogno, attento sogno. Vai, ne l'ho tolto, lo stavo provando, cioè, ma non mi piace. Una cagata, ecco, non mi è mai piaciuto a me. La verità va bene così, normale. Io sto uscendo, ho il baracchino di Vandamarchi, questo fa le magie, fa. E dai, già. Adesso mi ripartiamo, siamo qua a Bancaleddu, fra un po', come arrivo a Bancali ti chiamo. Bancaleddu, sei sotto a casa, vieni a casa, sì. No, fra, allora vieni a casa. Ma non sai dove sono adesso? Vuoi sapere dove sono? Ali punti. Scappa. Bene, bene, sto arrivando lì ali punti. Attenzione, Danuada. Attenzione, canale 10. Allontanarsi dalla linea gialla. Chi è, chi è? Avanti, chi è? Bombolino. Ma cosa Bombolino? Chi è, Claudio? Ma cosa Claudio? Torino, Torino Kawasaki. Eia, dopo tanto, dai. E beh, Torino, dai un attimino che finisco qua, paghiamo gli anilli, le pecore e sto tornando. E io bene ti arrivo là. Sì, è forte chiasso qua, c'è una bombetta, sì. Qua coordinate i punti, dai, riprendo subito. Ok, d'accordo. Avanti, French. Capa, capa, Torino, tutto sotto controllo qua. Va benissimo. Capa di Rogero, Positrudio. Oh, a me l'ecco non mi piace nulla, Doni. Non emetto io, boh, non mi piace. Boh. E vabbè, mica. C'è chi piace e chi non piace. A me piace leccare. A te ti piace leccare. No, a me già in macchina lo puoi mettere ogni quando sei in distanza, ma in città magari è fastidioso pure, capito? Azzurra, mi sono fatto la roba di ieri, già. Avevo fatto brodo. Comunque, il fatto sa che ho detto, cazzo, ma io sto usando l'acqua fredda, mi sono guancare le mani. Quando c'ho l'acqua calda, ho preso con l'acqua calda, l'ho lavato così bene, già. Ma il problema lo sai cos'è? Io ho attaccato la lavatrice, ho sistemato tutto, cazzo, ero un saracino a vendi. Adesso mi sono rilassato un po' nel letto qua, mi sto guardando un po' di TV e sto parlando a baracchino. Cavo, era troppo tutto trascurato, avevo capito, Tony. Eh beh, c'ha ragione, ma anch'io infatti sono sempre qua, ho sistemato, pulito, lavato la lavatrice, però vedi, stamattina che ho lavato, l'ho ripreso a sedere, l'ho ritratto in cucina, perché c'è più caldo. Perché automaticamente l'aria fredda va fuori, mi è rimasto qualche cosa umido, non proprio bagnato ma umido. E allora tu ce l'ho battuto domani mattina, dopo già asciutta. Eh beh, eh sì, hai fatto bene tu. No, io diciamo che ho sistemato un po' tutte le questioni qua. C'avevo un po' di casotto e adesso sono a posto, dai, diciamo. Ricappa. Anda bene, bene, bene, bene. Oh, ui, ui, per carità. Sì, ma non ho capito chi era poco fa quello lì, chi era lì. Salverio era. Allora già ho capito, era Salverio, ma non c'è bisogno di agnili. Ma non penso che mi sa io lo vedo. Oh, ma che io lo so cosa va. Ma sicuramente eravamo qualche amico. Forse si era tirato quattro schiaffe alla pizza. Stagioni. Papà, non stai uscendo di radio, se scendi di importante e buh. Ha detto che con Baracchino non usciva, ha attaccato l'altro e usciva, infatti ha chiamato. Perché quell'apparecchio non sta uscendo di radio, gliel'ho detto. Staccalo prima che lo bruci. Te lo porta a te, glielo guardi. Oh, io, per carità, cata che freddo c'è fuori, tu l'hai visto. I giorni della merla, il secondo giorno, qui c'è domani e buh, manco mai. Cazzo, ma freddo però. Stamattina sono andato a fare la revisione della macchina per un freddo, c'era il tipo che stava facendo la revisione, praticamente stava ballando la samba dentro quell'officina, per un freddo, sembrava accata alle bocche dell'inferno. Me lo posso immaginare. Dai che domani è 31, non conta più nessuno, è il giorno 1, andiamo a ritirare la pensione. Gaba. Ah, ce la danno pensione? È certo che ce la danno. Dimmi una cosa, ma tu c'hai un altro apparato acceso per caso? Cosa? C'hai un altro apparato acceso? Perché? Perché io sento un'altra voce quando parli tu. No, la televisione. No, no, sentivo fischiare. Hola, una prova. Non riusciva a capire se è uno canale che si è messo a fianco oppure eri tu in ascolto con un altro canale. Franchino! Ma te l'hai pulsato di sì. Franco! Oh, Franco! Ehi, hey, Tony! E perché sparisci di tanto? Tu hai stato all'altra stazione a vedere se c'erano le radio accese, ma sono spente. Ma boh, io sentivo uno te lo portavi appresso, infatti pensavo che aveva un altro apparato acceso, No, l'altra stazione è chiusa. Ho capito. Quella di Sorso è chiusa, è aperto quella di Sassi. Allora, dopo freddo c'è la Tony, adesso domani prende il pellet e mi apposto un po' là anche, perché devo accedere anche là, non è che posso stare sempre qua, no? Ma va bene lo stesso anche qua, dai, non c'è problema. Sì, va bene sino a martedì, perché mercoledì lo sai, arriva lì. Sì, quando arriva già rimane qua, non c'è problema. Non vuole che te l'ha già detto. E cosa sei venuto, cavo? E cosa te l'hai detto? Cosa? Ehi, tranquillo, già rimane in hobby, non agitai puttendi io. Se non le piace, ce ne va un'altra camera. Ui. Mi è caduto un cursore che è in castro nell'Espander 500. È andato a finire sotto il letto e non ha giocato di bulimia, fatto a terra, azzeccare con luce, tirare l'ovura. Mi ha rotto le scatole. E trego la scopa e te lo togli. Vabbè, non ne voglio fare. Una pugana. Se non riesco più a mettermi in ginocchio per terra, mi fa male i ginocchi. Chi c'è la vecchiaia? Oi. La vecchiaia è una brutta bestia. Però meglio invecchiare. È brutta quando non si invecchia, Tony, capito? E allora vedi che non bisogna più. È un casino. E allora? Strano, non c'è nessuno da canale. C'era Natalino, ma sicuramente stava facendo alcune cosette. Comunque mi hanno detto che esco a un mese di picchi positivi, forti. Addirittura da 7.45 se ne va quasi fondo scala. Qua c'è 9.30, Tony. Il più forte. Questo svita arriva a 9.30. Già va bene, a me interessa poi la radio più che altro. Già c'hai bella radio, già c'hai bella radio. Adesso. Milo via, Natalino, è ben Natalino. Ciao Tonino. Ha detto che c'ha la radio bella, c'ha la radio. Che bello, mi. Attenzione, canale 10, no, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Mia Tonino con le calecca, mi. E l'uomo. Oh, che bellino! Ma che è? Dovrebbe leccare! Non si dice leccare, si dice slinguare! Vabbè, lo mantesce, no? E cambio il discorso! Attento, Giovanni! Che briciola! Briciola! Sai che non arrivi manco dai nogazzassari! Attenzione, Giovanni! Attento, Giovanni, stanca! Senti, qui c'è una briciola! Nella città di Sassari, cambio! Mi ha chiamato briciola! È stanco Giovanni, non ne ha voglia. La tua morte. Natali! A che senti? Ma casa mia, Fiorellino, qui. Fino via, Cicomino. Fiorellino. Ah, Tatino. Manuele, ma te li immagini a questi qui, a te li compri a tutti e due, a Franca e a Tonino. Ma se mi dà la pena, vivo. Manuè, e beh, Cicomì. Da posto, sì. Sì, attenzione, Cicomino. Mamma mia, caro, già brutto. Ha tenuto un pareggio a Tonino e a Franco. Fiorellino, non c'è più dove è finito, lalla. Cicomino si mangia, formaggino, cogolfino, il cugino, nipotino. Ciao Manuè, ma mi ascolti a me, sì. Niente, ma niente, va. Sempre ma niente, casa, barre di buco. E perché si è messo la piena vicino al frigorifero? Così apre e scartofeggia. Ecco perché ogni tanto aumenta il segnale e poi la bascia, che sta sempre ma niente. Aumenta il segnale quando apre il frigo. Manuele! Ma è zitta che mangiendi, Natalia! Ma sempre con le mani dentro il frigo, sega! Senza mangiare, non ha bocca a la cipolla! Ma è te! Sì, qua! Rimani, Sempre barre in buco e fedica, sempre macinghendi! E lascia le mandibole un pochettino in faccia, che falle riposare! Bella gusta, ti piace la gusta, mi gusta! Manuè! Hai finito di mangiare, eh? Finito, finito! Oh, ti chiamo Falcone, eh? E ti faccio il 7 in telefono, eh? Ti piovo di telefonate! Ah, sono 7 in telefono, eh? Catalino, ti faccio il 7 in telefono, eh? Aspettate un attimo, sto guardando una cosa. Bene, mi ascolti, Tori. Provi avanti. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5. Santiago 9, Radio Monte Carlo. Radio Venere, è entrato Savino la Potenza, pronti? Pronti, avanti Savino, ascolta che tocca, vai Savino per Manuele. Auto circolare a tutti i componenti del canale 10, la Riva Lunga qua in transazione, Fredanieta. Cappa, voce Franco che sta cercando qualcosa da sgraffignare perché ha sentito Manuele che si mangia il pane con le cipolle. Manuele si sta scaldando le mani col frigorifero. Poi c'è Natalino che sta ascoltando e sta mangiando le formagelle. Natalino e Cibucu. Natalino c'è mangiando di brioche. Una crema. Capa capa. Oh, questa qua, gatta, mi ne capelli di cuffi da capo, Tony. È una cosa incredibile. Va a usare in gabbia, eh. Dai, poverino, gatta. No, poverino, gatta, non è quasi nuda, c'è frenato, miraggio. Viene, mi è piccoli teneri cuffi, mi ha fasciato tutto il tappetino del PC. Perché vuole parlare anche lui? Gatta, il tappetino che poggiava per il mouse ce l'ha tutto mangiato. Buh, allucinato. Così ne copri un altro, dai. Adesso con tanta roba che va, no, un tappetino mai fasciato. Per carità. Ma lui è finito. Boh, sai dove sia adesso? Qua coordinate per la nieta, devo prendere la salitella per andare zona emiciclo, cambio. Ok, ti arrivo bene la predagnita. Una canonata c'è Tony, dritto al cuore mi arrivi. Ah, che bellino quando dici così, so tutto quanto e mosso liscio. Voglia tu mi turbi, ai. Facconi, facconi. Naso. Ehi, Franco. Oh, ya. Riprendi, ma lui ne sta ancora mangiando. Perché io sono qui in giro in macchina, mi. Sono così che è niente che paga bimbi. Sotto a chi tocca, io sono in casa ancora. Aiù, buchetti di gas, le tessere, e c'ha memori di Ah, oh, Franco. Ehi, Tony. Quelle luci a LED che ti ho dato, con la scatoletta che accendi, praticamente ci sono tre batterie, mi. Da un volso e mezzo l'una. Già lo so, ma li ho messi e ci sono attaccate, adesso li sistemo in un altro modo. Io le attaccate non sono più staccate e non ho messo niente. Ma ti fa troppa luce, ti fa cieco, cazzo, con le luci. Ma l'ho messo sotto però, capito, mi illumina tutta la parte qua. Già va bene, a me ho so dove toccare, raga. Sì, vabbè. Come mai arrivare così basso, Manfano? Franco, hai detto, Manuele, come mai arrivi così basso? Arrivo basso. Forse va problemi Edo. Manuele, qua mi arriva a fondo scala, Franco. Beh, io mi faccio di parlare. Parla, Franco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma sì, in DM, Franco. Negativo, sono a prestazione fissa. Ascolta, Manuele, tu dove ti trovi? Allora, ascolta, io mi sento tutto. conosci bene, tu sei a Manetta, Tonino a Manetta, Tonino è Vaso, quindi i problemi ce li ha, ma non Tonino, l'altro amico, Latte Dolce, i problemi ce li ha lui, non voi. Emanuele quello Latte Dolce. È un po' bassino, io sono qua a due passi a Latte Dolce, quindi voi siete una canonata qua, qua via Canica dalla mia. Ma Emanuele c'ha un'antenna a base magnetica attaccata al frigorifero, capito, dentro casa, non è sul tetto. E dirgli di aumentare i gradi del freezer, magari esce più forte. Emanuele, capito? Insomma, sono più vietato al centro sotto un palazzino. Ma adesso ti sei abbassato, Emanuele? Porta il frigorifero a 5 o a 6, esce più forte. Io sono qua, quasi quasi al distributore di Silvetti e qua sta arrivando una telefonata. Tonino va un cacciabombardiere a questo valacchino. Addirittura, e se mettiamo questo, come mi senti, Savi? Un bel eco c'è. No, leva, l'eco. Che facciamo come? Ecco. Ehi, dimmi, Emanuele. Come adesso? Quasi roba, ma Marchetto, tu il frigo non lo devi aprire, se lo mangi sempre, a me non è un segnale stabile. No, è ammazza l'antenna, dai, è l'antenna che non c'ha mai. Prendo un pezzo di filo da attaccare alla cucina, no, un pezzo di filo di rame, lo collega a un abitato filettante della cucina, la carcassa. E no, frappo, vuoi fare dalla cucina, dal frigorifero alla cucina, cucina e mangia. Adesso mi sago, c'è una gru qua a Santa Maria, adesso assago sopra e ci metto l'antenna magnetica sopra la gru, vediamo se arrivo meglio. Sì, quella bianca e rossa, dai, quella gru, nuova, eh. Ragazzi, sto salendo sopra la gru che c'è, Santa Maria, fianca a Santa Maria, così l'antenna magnetica l'attacco di lì, vediamo se esco più forte. Io. Quello senza ombra di dubbio, è un braccio questa gru. Faccio imbagliato, invece di buio un'altra gru, faccio buio un'altra gruista e roba in massa. Ma chi so se farà duioso? Faccio imbagliato a Capitan Ventosa. Franco. Sì, Tony, è strano che a me non mi ascolta a basso. È possibile, arriva a bomba tutti i ribassi. Allora, qua sono di fronte a cosa, come si chiama? Ma... la questura vecchia si deve aver girata. Allora il problema è lui. Sicuramente con la terra non sta facendo massa, capito? Sì, perché è possibile, dai. Addirittura me Santiago 4 mi ha dato la caloccia. Sto sperando che voi mi ascoltate ancora, non lo so. Sempre a bomba, 9.10, 9.15, 9.5, Salvi. Anche da parte mia, 9.20, sì, Salvi. Qua coordinate la via di Livrosi, come ti si chiama? Via 25 aprile. No. No, cazzo, se eri a Santa Maria, come fai adesso? Via 25 aprile. Cazzo, un giro di via cosa hai fatto? Di Corso Vico si è trovato da ridere, no? No, quella che sale, come si chiama? Viale Mancini. Ah, via Mincini, sì, ho capito. Sempre me te arriviamo, sì. Lo faccio un Mercedes a fare con cazzo, da fare un po' con questa 90.000 euro. Ho detto, Sammy, sempre me te arrivo a quella zona. Ui, guarda qua, sto passando adesso in mezzo ai giardini, via Tavolata, c'è una telefonata. Un attimo, mi sta squillando il telefono. Cava, va bene. A me mi sta vibrando il trisoma qua. Vabbè, Salve, ti lascio un attimo, dai, vado a controllarmi il caffè nella caffettiera. Allora te li prendo dopo. Sì, ya, io vado a vedere se è fresca la birra, dai. Anda a me. Io. Vabbè, se ti dormite, siete. Finciola. Torino. Ciao a tutti, sono parcheggiato in Piazza Università. Ciao ragazzi, a più tardi. Ciao, Salve. Ebbene, non c'è più nessuno. Franco, Emanuele. Sì, c'è pure da Giamenti. Non risponde nessuno, guarda. Un attimo che vi faccio la mazza con tante banco, se no ce la porterà bene. No, non si va a fare. Fatti la mazza. Savini oggi sì. Franco. Tatalino. Lui. Meno male già ci sì. Tu già sei dopo, sì, sempre in ascolto. Sì, stavo guardando roba. Come dire, va. Che puoi stare capretto. Andà bene. Io. Ma il tuo Manuele ha fatto venire a fare il burro a mega. Sì, va, mi magna. Ma io ho quei burini al cioccolato. Questi sono buoni, mio. Lo so. Che sono buoni. Perché non voglio mangiare roba pesante, che sono pure casotti, non mangio. No, stasera mi faccio, a cena un'insalatina mi faccio. qualche cosa leggera, dai. Ieri ci ho fatto un brodo così buono di pollo, il bagnablu bollo, un battato, carota, sedano, cipolla, vediamo che roba, ma saurito un bel buono, e oggi a pranzo ce l'avevo il brodo di mamma, mi ha fatto la 50. Libro del Mammuzzo. Sì, poi ci fai la finestrina col brodo, poi metti un po' di formaggio grattugiato, quanto è buono, uiuiui. E tu più gusti da giumagnare. Io ci ho messo qualche fetta biscottata che c'è bene di brodo, oh che bello. E Franco che fine ha fatto, sparito, Ma Franco, andato, se ne E boh, io ho ricevuto una telefonata, è tornato alla bassa e poi sono entrato, c'è più Franco, boh. Era al telefono. Boh, attenzione, Franco. Manco un telefono, mi rispondi. Attenzione, Saverio, binario 10. Boh, dai, mi sposto un pochettino da lì. Campa, sentiamo più tardi. Via, che scatto peggio qualche cosa. Gala gara. A te, Totonino. Se ne è appena andato, ha bisogno di giuntarvarmi a fare che cosa. Tari, me lo fai la cortesia. Me lo dai un controllo di radio, fa la cortesia. È un po' telefonica, Non è la tua solita, va. Luana. Non ha cambiato la capsula col microfono. Avendomi uno spazio piccolo. Non è chiara. Non è il mio, il baracchino, è quello di Giovanni. Ah, paghi il suo. Guarda questo è un altro microfono, com'è? Meglio? Sì, sempre bassa, Ok, dai, ti faccio i parametri, dai. Ci sentiamo dopo. Sì, ok. Magari alza il mic again. Adesso glielo faccio io, dai. Sì, ok. Chi è? Sì, da quello Manuele, tu sei? No. Aspetta un attimo. Avanti. Manuele, tu vedi? Ma. Oia. Basso sì, non sei come tu, come ieri per esempio, ieri ti ascoltavo forte, oggi ti ascolto basso, e sempre basso sì, non ti accorgi forse come te rimani, basso, Radio 2, evidentemente hai toccato qualcosa, Manuel, perché ti ascoltavo bene ieri. Sempre bassa, volume molto basso. Ma non è il mic che è basso, Manuè. Santiago 9, la radio per me può essere anche 5. Non è forte però, capito? Una radio normale. K, però ti ascolto al basso di radio. Io ti ascolto normale bene, poi non lo so. Io basso l'ascolto, Tuni, non lo ascolto come l'ascoltavo. A volte c'è forte e a volte è basso. Come il fendi massa che s'antenna. Ma che cazzo mi tocchi di pucchetti, fendono a ma. Là ci vuole un bel preampli, Manuè. Cioè, a me mi sento sempre bene, poi. Mica c'è uno espandere 500, trombiazzi. Comunque, è un microfono normale, comunque, uscivi bene in radio col microfono. Quando io ero qua, era perfetto col microfono. Non so. Sì, Santiago 7, ma avanti mai, a Masciadua. Non gliel'hai fatta la massa. Scusa, ma la massa magnetica non fa massa. Giovanotti. Qui là, ciao, caro. Ciao, Tonino, con chi sei? Con Natalino Emanueles. Ciao Natalino Emanuele, Carlo, direzione casa, adesso sono a Predania dalla Plicomen, sto uscendo. E allora già arrivo bene con la zona, che io l'abbraccio bene. Ciao Carlo. Avete parlato in due. Ciao Carlo. Ciao Natalino. No, fotoscala sei qua Carlo. Già va bene questa antenna, dai. Oh.